Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Eccoci qua accomodati nella nostra casa che non è un albergo, seduto in poltrona, adesso però si ripiglia, fa la persona educata, era un po' stravaccato come si dice, Alberto Pellai, medico ricercatore, il nostro papà della casa che non è un albergo. Alberto, ti vedevo bello adagiato per il lungo. Ma sì, ma perché secondo me ormai qua il clima rimane un clima molto familiare, se ci pensi anche... Tantissime volte ci capita di avere ascoltatori che ci chiamano per parlarci della loro famiglia, dei loro figli, ma sempre più spesso ci chiamano uomini e donne che ancora non sono mamme e papà e che ci usano come una sorta di precorso universitario, cioè si stanno preparando Oddio, che responsabilità. A quello che li aspetta. Intanto io ricordo il nostro numero verde che funziona un po' come chiave per entrare nel nostro salotto, 800 24 00 24. I messaggi al 349-238-6666. Allora Alberto, la scorsa settimana avevamo cominciato ad occuparci del tema che proponiamo oggi ai nostri amici. Avevamo insomma fatto una specie di trailer con la testimonianza di un ragazzo, di uno scrittore e di un esperto. Agli ascoltatori abbiamo chiesto di mandarci mail in cui raccontare le loro storie, le loro esperienze, perché sarebbero diventate protagoniste di oggi. Io devo ringraziarvi perché ne avete mandato davvero molte diverse. Per noi è stato un po' difficile scegliere, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e comunque poi potremo riprendere e rimandarne di nuove. Alberto. Sì, il tema, ve lo ricordate bene, è quello del bullismo. Per oggi è proprio il tema cardine della nostra trasmissione. Cominciate a chiamarci se avete domande o se avete storie da raccontare. Vi è capitato di essere voi vittima di bullismo quando siete stati a scuola e come sono andate le cose? Oppure vi è capitato con vostro figlio di trovarvi in una situazione di questo tipo? Di nuovo, come sono andate le cose o come stanno andando le cose? E io direi, Alberto, che possiamo, non è qua con noi ma è in linea, presentare già subito il nostro ospite. Di solito i fatti di bullismo si incontrano e si perpetuano proprio nelle classi, e abbiamo in linea con noi il professor Domenico Altamura, che è dirigente del liceo scientifico Righi di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come la chiamiamo, signor preside? Sì. Allora, preside, stia con noi. Noi andiamo ad ascoltare la prima lettera che ci è arrivata e così poi la commentiamo naturalmente insieme a voi, 824 0024, insieme al nostro preside e Alberto Pellai, che ci farà da guida. Andiamo a sentirla. Avevo 12 anni. Ero piccolo nel corpo, cresciuto poco rispetto ai miei compagni che in seconda media erano già molto più grandi e sviluppati di me. Inoltre, venivo da una famiglia povera, e questo era chiaro perché vestivo abiti puliti e in ordine, ma sempre gli stessi. Così almeno come per 3 anni non ho mai potuto cambiare cartella. Questo è bastato per diventare lo zimbello di alcuni bulli della mia classe, che mi hanno preso di mira in tutti i modi possibili e immaginabili, a volte anche picchiandomi. Tale era la vergogna che non ho mai chiesto ad un adulto di aiutarmi o di proteggermi. Pensavo di meritarmi ciò che mi stava accadendo. Ora so che ero vittima di bullismo. Col tempo la vita mi ha riscattato. Ora sono un uomo felice e realizzato. Ma quella ferita brucia ancora dentro di me e farò in modo che i miei figli non la conoscano mai. Però non so bene cosa un genitore dovrebbe fare per evitare che i suoi figli diventino vittima di un bullo. Avete qualche consiglio preventivo? Alberto, secondo te è una storia comune quella che ci ha raccontato il nostro ascoltatore, che è andato proprio a ripescarla? È una ferita che a lui brucia nonostante siano passati ancora tanti anni, e in quegli anni forse non c'erano le parole, non c'era la mentalità per chiedere aiuto, si rimaneva vittime e si mandava giù, insomma. Sì, la parola bullismo è proprio una parola entrata recentemente nel nostro vocabolario. È molto interessante perché se voi la scrivete sul vostro computer leggere vi accorgete che il sistema automatico di correzione interviene perché non la riconosce. Quindi probabilmente quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore è proprio una storia che è rimasta nel silenzio. Più che comune è una storia tipica, cioè ha dentro proprio tutte le caratteristiche che descrivono una storia di bullismo. Ci interessa molto la sua domanda finale, cioè cosa un genitore può fare per aiutare un figlio che si trova in una situazione di difficoltà, ma soprattutto per evitare che un figlio si trovi in una situazione di allora, difficoltà. Allora, e cosa devono fare anche gli insegnanti? Alberto, tu fai il genitore e al nostro preside chiediamo anche dei consigli preventivi che può suggerire lui in qualità di preside. Alberto. Sì, intanto i genitori devono sapere che il fenomeno esiste, non lo devono sottovalutare. Lancerei anche una provocazione come sondaggio. Cioè, in questi giorni si è molto sentito parlare di questa idea lanciata dalla ministro Gelmini, che dice: contro il bullismo mettiamo le videocamere nelle scuole frequentate dai nostri figli. Vorrei chiedere ai genitori all'ascolto se per voi questa è davvero una buona idea. Voi sareste più tranquilli se al mattino i vostri figli entrano in una scuola dotata come di videocamere? Come quando si va in banca. 824-0024, i messaggi al 349-238-6666, ma a parte le telecamere, ai genitori in ascolto, che cosa potresti dire, Alberto? Tu che di bullismo ti sei occupato molto. Sapere che il fenomeno esiste, ma... Ci sono dei segni caratteristici. Quando un figlio in realtà è vittima di bullismo, una delle prime cose che manifesta è una enorme fatica ad andare a scuola. È come se si fosse potentemente disamorato della scuola, anche se in realtà magari aveva ottimi risultati. Naturalmente segnali d'ansia, un forte ritiro sociale, un forte isolamento sociale, e l'elemento caratteristico è quello che ci ha detto anche la lettera, cioè la vergogna. A me succedevano cose e avrei avuto bisogno di chiedere aiuto, ma mi sentivo intrappolato in quello che stava succedendo e pensavo che nessun adulto mi avrebbe potuto aiutare, mi vergognavo troppo, quindi si rimane nel silenzio e spesso si subisce per molto tempo. Queste sono le indicazioni che tu come genitore vorrai dare, ma Alessandra da Brescia ci manda un sms molto interessante e ci dice: io come madre vorrei anche sapere come accorgermi o prevenire che mio figlio stia diventando un bullo, ne parlerò. Bullismo, signor preside. Sì. A scuola, come cercate, dato che immagino ormai insomma, dobbiamo farci i conti con il bullismo, come cercate di prevenirlo? Oh, dunque, io credo che sia necessario, visto l'intervento precedente, cioè la lettera che avete letto, l'intervento di Alberto, sia necessario fare anche una leggera distinzione fra atti di bullismo che avvengono in una scuola, diciamo, adesso diremo di base, la scuola dell'obbligo, cioè tanto per intenderci con gli ascoltatori, la scuola media, elementare media, con le scuole superiori, certo. Dove abbiamo giovani e maggiorenni o prossimi alla maggiore età. Sì. Il caso che avete riportato è un caso di un ragazzo, cioè la lettera riportava quando l'autore della lettera aveva 12 anni e assomiglia a tanti casi che avvengono alla scuola di base. Scuola media. Ecco, lì, oltre tutto quello che ha detto Alberto, che è giustissimo, lui sottolineava come un genitore se ne accorge, allora la fatica a venire a scuola del ragazzo, dei segnali particolari. E io quello che dico essenzialmente è il dialogo che esiste fra il ragazzo e i genitori. Sì, ma dai. Su questo, preside, io penso che l'abbiamo sottolineato tante volte, ma andiamo a scuola. Voi lei come preside, quindi come il corpo docente si attrezza per individuare, prima ancora di individuare, prevenire il bullismo? Il docente innanzitutto deve avere uno stretto rapporto con la famiglia per prevenire atti di bullismo, perché nel senso che solo parlando con la famiglia e il ragazzo, è un intreccio a tre, minore, genitore, insegnante, possono percepire che il ragazzo può essere preda o è stato preda di atti di bullismo. Sì. Questo per prevenire, diciamo, il fenomeno. Invece per prevenirlo in senso lato, noi stiamo cercando, io dico noi, so che l'Italia non è tutto uguale, no. Insomma, stiamo cercando di mettere in atto dei progetti particolari dove a fianco alla formazione degli insegnanti, sì, per una loro maggiore sensibilità e comprensione del mondo giovanile, c'è anche progetti particolari minati ai ragazzi sulla convivenza civile, sul rispetto delle regole, sul dialogo continuo con, certo, i portelli di ascolto, tale da poter innescare il discorso, farlo conoscere e prevenirlo. L'informazione. Preside, prima di dare la parola a Pino, che ci chiama da Livorno, intanto saluto. Buongiorno Pino. Volevo chiederle, Alberto ha lanciato questa domanda agli ascoltatori. La proposta di mettere delle telecamere nelle scuole vi renderebbe più tranquilli o no? A parte che arrivano già molti messaggi e dicono non ci sono risorse, per cui la cosa muore lì. Ma secondo lei, come la vede? Ma io, cioè, sinceramente, ecco. Mi dica se la vede bene o male, come preside. Non la vedo finalizzata a questo. Non la vede. Le telecamere ci sono già per altri motivi, ma non la vedo in una scuola che per prevenire fenomeni di bullismo mette tutto sotto un occhio di un gran fratello, insomma. Si potrebbe solo riconoscere poi i colpevoli, non è certo l'opera educativa che la scuola deve fare con le telecamere, insomma, è solo un metodo quasi repressivo, insomma, conosco, vedo, né tantomeno i ragazzi, siccome sanno che c'è la telecamera, non commettono questi episodi, perché certo. Noi dobbiamo educarli al bullismo anche fuori dalla scuola, all'interno e fuori, la nostra competenza è all'interno, ma poi vanno fuori questi ragazzi, certo. Fuori non ci sono le telecamere, non so se è chiaro. Salutiamo Pino, Alberto, certo. Che lo facciamo accomodare vicino a me. Buongiorno. Vicino a te. Lo tengo vicino a me questa mattina. Pino, come mai ci ha chiamato? Cosa ci vuole raccontare? Se lo seguo subito, guardi, io parto da una constatazione, al di là, con tutto il rispetto per le indagini psicoanalitiche e psicosociali, da una constatazione che raramente, forse addirittura mai, fra i protagonisti attivi o passivi del bullismo ci sono soggetti, ragazzi, che praticano attivamente sport di gruppo o sport di carattere... può essere anche, che so, judo, queste cose che sono hanno una grande rivalutazione dell'autocoscienza e della sicurezza, perché quindi c'è un fatto, la vittima non deve avere insicurezza, chi esercita attivamente queste violenze, se è provvisto di quell'educazione che viene maturata nelle attività di gruppo, pensa al rugby, pallacanestro, il calcio, quindi, eccetera. Quindi Pino, lei dice il bullo non fa attività fisica, non è inserito gruppi. Andiamo ad una affermazione che è al contrario di quello che dico io. Io dico che l'educazione primaria, al di là delle prevenzioni, i controlli, le telecamere, i sermoni, le riunioni dei genitori, eccetera, la cosa importante è estirpare quelli che sono i fattori che mancano nel ragazzo, nella ragazza, va bene, quei fattori che possono determinare quelle situazioni. Quando i ragazzi fanno che gli sport sono educati, anzitutto a non prevaricare, e sono anche capaci di resistere, di porre fronte non soltanto con la forza fisica, ma insomma, con la forza, certo, di carattere. Un'educazione, questo guardi, che... l'educazione, guardi, c'è un fatto. Io vorrei che venisse fatta un'indagine statistica per scoprire quanti di quei soggetti che sono attivi o passivi in questa maledetta attività sono veramente inseriti in attività sportive, non il bullista grosso che fa il girato e fa il Pino, la ringrazio, mi sembra che il suo messaggio sia arrivato, io la ringrazio per dare anche un po' la palla agli altri ascoltatori. 824 0024. E Alberto, io leggerei, abbiamo sentito anche il parere del nostro preside riguardo alle telecamere proposte, e ci sono diversi messaggi, vogliamo leggerne? Telecamere assolutamente sì, ai miei tempi erano meno i bulli, avevamo prof più preparati. Favorevole al 100% alle telecamere, bulli espulsi senza appello. E un altro, telecamere assolutamente sì. In questo momento effettivamente i genitori all'ascolto di Questa casa non è un albergo considerano la proposta del ministro Gelmini una proposta significativa per prevenire il bullismo. C'è una storia, i 5 anni peggiori, quelli del liceo, fisico gracile, preso di mira da un compagno, spalleggiato da altri che mi deridevano quotidianamente, a 60 anni ancora incubi. E direi, aggiungiamo a questa storia un'altra storia che ci è arrivata via mail. Certo, allora chiederei a Giacomo Spunta di mandarci la nostra prossima storia, Pensieri di Madre. Andiamo. Mia figlia ha solo 13 anni, eppure già nella sua classe si sono organizzati per fare gruppi e gruppetti in base a come sono vestite e a quali sono i loro cantanti preferiti. Questo comporta che noi genitori più volte ci dichiariamo disponibili a comprare il vestito che non può non avere o il CD che è necessario per continuare ad appartenere a quello specifico gruppetto di cui anche lei ormai sente di fare parte. Conversando con lei di tutto questo, mi sono resa conto che tre ragazze, di cui due di origine extracomunitaria, non appartengono a nessun gruppo. Sono spesso tagliate fuori dagli inviti per le feste e vengono da tutti considerate come delle sfigate. Mi sto chiedendo se quello che sta succedendo nella classe di mia figlia sia un esempio di bullismo, oppure se cose del genere sono sempre successe nei gruppi di preadolescenti e tra amici troveranno il modo per risolvere questi problemi. Eleonora, una mamma in dubbio. Alberto, una storia di bullismo al femminile. Ci sono delle differenze tra il modo in cui viene messo in azione il bullismo all'interno del gruppo dei maschi e quello invece in cui ad agire sono invece le ragazze? Ma sì, le differenze sono solitamente che mentre i maschi lo agiscono e spesso anche con la forza fisica nei confronti del soggetto vittima, nel gruppo delle ragazze il meccanismo è molto più psicologico, passa attraverso il principio dell'esclusione, per cui si genera proprio una sorta di comunità che tiene nell'angolo una o è più raffinato, sì, è molto anche crudele, perché fa fondamentalmente sentire la persona vittima molto esclusa, e in generale è proprio concentrato su caratteristiche quali l'aspetto fisico oppure i vestiti, il look, per diventare parte del gruppo dominante devi avere quelle caratteristiche. Il nostro preside che cosa dice? Lei nota questa differenza? Certamente. Soprattutto lei in un liceo in cui anche i coetanei, maschi e femmine, sembrano di età molto diverse, le ragazze crescono prima, hanno esigenze diverse, ma preside? Ma dobbiamo mettere in atto strategie, e lo facciamo continuamente, per le immagini solo anche i ragazzi stranieri che abbiamo nelle scuole, per integrare ragazzi e ragazze stranieri che abbiamo nelle scuole, che dobbiamo mettere in atto strategie educative di integrazione. Volevo soltanto, se mi permettete, darvi un mio consenso, che la risposta alle telecamere viene da voi stesso. Cioè, voglio dire, quando sta parlando benissimo di bullismo Alberto, e vedo che è un esperto, io lo chiamo Alberto perché è così, molto confidenzialmente. Ormai in molti ascoltatori del nord lo chiamano l'Alberto. Comunque, perché, l'Alberto? Perché stiamo facendo una distinzione tra quello che è il vero bullismo e quelli che sono degli atti deviati di delinquenza. Il ministro vuole rispondere con le telecamere solo a quegli atti, cioè vuole vedere se un ragazzo usa violenza fisica, perché la violenza psicologica non si vede con le telecamere. Certo, purtroppo no. E quindi siccome noi siamo scuola e non siamo altre istituzioni del Ministero di Grazia e Giustizia o giù di lì, cioè noi siamo scuola, dobbiamo educare, prevenire al bullismo, iniziando essenzialmente, quello che ci preoccupa di più, degli aspetti psicologici, di violenza psicologica nei riguardi dei compagni. E lì dobbiamo lavorare. E con non si può con le telecamere. Certo. Riguardo a mi scusi preside se la disturbo, noi abbiamo il GR riguardo alle telecamere. Dopo una batteria di SMS favorevoli, adesso ne è arrivata una altrettanto che bilanciano, di ascoltatori che di telecamere non ne vogliono sentire parlare. Siamo tornati insieme, direi che ora è il momento del nostro consiglio di lettura, poi continuiamo a parlare di bullismo, continuiamo anche a leggervi i messaggi che arrivano sulla proposta di mettere le telecamere nelle scuole. 824 0024, questo è il pass per entrare in questa casa non è un albergo, oppure il 349 238 6666. E oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa dal titolo I no che aiutano a crescere. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email con titolo, recapiti e vostro numero di telefono a esserebenessere@radio24.it. In collaborazione con IBS.it. Allora, abbiamo in linea con noi Christian, ci chiama da Modena. Buongiorno Christian, benvenuto. Buongiorno. Ci racconti, Christian? Guarda, ci sono passato quest'anno con mio figlio, è successo giovedì. Mio figlio fa le elementari, fa la quarta, due giorni alla settimana, quando finisce la scuola, va direttamente in palestra, perché intanto è collegata la palestra, cioè all'interno della scuola, a fare basket. Sì. Poi è successo che hanno fatto allenamento, finito l'allenamento, lui assieme un altro ragazzo, sono sempre gli ultimi ad uscire, niente, per farla corta, due ragazzi sono entrati, sono stati ripresi dall'insegnante dicendo che non potevano stare lì, con la scusa di dover fare la pipì, sono rimasti lì dentro, anche se non potevano stare. Sta di fatto che gli hanno detto, minacciandoli, di spogliarsi, di fare la doccia, che li dovevano guardare mentre facevano la doccia. Mm. Mio figlio in quel momento lì aveva la capatoia addosso, e anche quell'altro ragazzo si sono chiusi, sono rimasti lì fino a quando una delle due mamme non è entrata, ha capito la situazione e i ragazzi sono scappati via. Secondo me, mio figlio sinceramente ha 9 anni, è il classico Sant'Unione, cioè è grande, è grosso, però è un bonaccione sotto questo punto di vista, certo. Qua, e secondo me ancora non l'ha elaborata. E sinceramente io e mia moglie non sappiamo come affrontarla adesso. Certo, anch'io avrei la sua stessa difficoltà. Chiediamo ad Alberto e anche al nostro preside se possono darle una mano. Ma direi a Christian difficile. Che la cosa più importante prima di tutto è che il bambino le abbia potuto raccontare esattamente come sono andate le cose. A questo punto proprio lei può ricollocare il suo bambino come un bambino che è stato vittima di una grave prepotenza e di un grave sopruso. Deve sentire che ha il papà dalla sua parte, e direi che forse il passaggio che più può far bene al bambino per l'elaborazione è proprio dire: io e te andiamo dalla dirigente della nostra scuola e raccontiamo quello che è successo, perché la scuola deve rimanere un luogo sicuro, tu hai il diritto proprio di denunciare la cosa che ti è capitata, in modo che quando verranno identificati i due ragazzi che hanno combinato questa cosa devono essere puniti, e soprattutto devono capire che i bambini più piccoli non possono essere spaventati, soprattutto tra l'altro con una situazione che ha a che fare con la sessualità, che tra i 9 e gli 11 anni rimane un tema importante, una sfida evolutiva importante. L'altro aspetto è che secondo me bisogna ricostruire anche l'idea che l'unione fa la forza, quindi magari dentro agli spogliatoi dopo questo episodio per 1, 2 o 3 settimane i bambini possono proprio diventare forti della loro unione e dire: facciamo tutto insieme, usciremo tutti insieme e non si esce sparpagliati, così sentono che il gruppo rimane un luogo dove sicuro. Si è protetti e dove ci si sente sicuri in funzione del numero. Christian che dice? Scusa un attimo, lui infatti, Christopher, mio figlio, non è riuscito a raccontarlo subito sinceramente, perché l'ha detto, cioè siccome a prendere il bimbo c'era la babysitter, a prendere mio figlio, non gliel'ha detto subito, cioè non l'ha detto con lei, ma con noi non ce l'ha detto, è stata la nostra babysitter che ci ha telefonato dopo, perché la babysitter si sentiva in colpa di tutta questa situazione. E allora dopo, parlando con il bimbo, è venuto fuori, ma è venuto fuori molto lentamente, è venuto fuori. Beh, ma questo Christian mi sembra, Alberto, non è normale, senso, mi sembra, forse lui l'ha raccontato. È venuto fuori. Una cosa in più ancora che potete fare, magari se ci manda una mail, poi io le darò un elenco di titoli di libri, potete leggere proprio libri per bambini e ragazzi che hanno come tema storie di bullismo, dove tutti i pezzi che sono molto caotici e disordinati dentro a una vicenda di bullismo all'interno del libro vengono risistemati, vengono messi a posto, così il suo bambino ha la possibilità di rivedere la sua storia dentro alla storia di un altro bambino che nella vicenda e nella trama ha subito più o meno la stessa prepotenza, e vede davvero come si rimettono a posto i pezzi, soprattutto si sente rassicurato dal fatto che quello che gli è successo prima di tutto può non risuccedere più, e ha bisogno anche di vedere che gli adulti, cioè i genitori e la scuola, sanno quello che è successo e metteranno in atto delle cose perché questa cosa non ricapiti più. Allora io, Christian, io chiederei, se lei è d'accordo, anche un aiuto, anche se un po' sintetico, al nostro preside. Posso, è vero, dire che... posso dire solo una cosa? Ma deve. Io la prima cosa che ho fatto, ho avvisato subito la sua insegnante, anche perché ho un buonissimo rapporto, ci conoscevamo dall'infanzia, per cui la prima cosa che ho fatto bene. Ho avvisato l'insegnante, che lei subito ha avvisato la direttrice, ha avvisato, l'indomani abbiamo raccontato il tutto, abbiamo ricontato. Siccome i bimbi sembra che siano della stessa scuola, tra parentesi, un anno più grande, ma sono della stessa scuola, quello che io ho cercato di far capire a mio figlio è che comunque se dovesse andare con la preside in giro per le classi a trovare questi ragazzi qua che hanno fatto questa cosa qua, di non aver paura, perché secondo me quello che deve capire è che comunque una cosa che non va bene non può passare impunita, per cui deve proprio solo che far passare questo qua, questa cosa qua nella mente dei bambini non è facile perché si sentono in qualche modo, no, gli spioni, anche se in questo caso denunciare un fatto di questa gravità non è fare la spia, certo, come... E di nuovo è molto importante che, e questo è proprio in tutti i protocolli di prevenzione del bullismo, che tutti i bambini sappiano che dentro alla scuola c'è una strategia antibullismo di cui gli adulti sono i referenti, e sappiano anche identificare l'adulto dentro la scuola che è disponibile per raccogliere le storie di soprusi, di violenza, di sopraffazione, di bullismo. Quindi si sappia che è proprio un diritto del bambino che ha subito quello di andare a raccontare quello che gli è successo all'adulto di riferimento, e che quello non è fare la spia. Però, come giustamente sottolineava Christian, è difficile trasmettere questo forza e questa convinzione. Il secondo al passaggio ragazzino, è che perché... sono poi gli adulti che, intervenendo, si fanno vedere come giustamente autorevoli e in alcuni casi con i bulli anche autoritari nei confronti di episodi che non sono accettabili entro le mura scolastiche. Il nostro preside che cosa dice? Perfettamente d'accordo, guardate, il punto di forza è il dialogo dal ragazzo che ha dato al genitore, ha parlato con l'insegnante, quindi quel triangolo di cui parlavo. Sì. L'altra positività è l'unione fa la forza, diceva Alberto, giustissimo, fra i ragazzi, la formazione, però è anche più giusto, e questo lo facciamo nella nostra scuola, quel patto di corresponsabilità educativa tra gli insegnanti e i genitori, e quindi i ragazzi, che sia ben chiaro che nella scuola c'è una strategia antibullismo, così i ragazzi lo sanno, e di fronte poi a fatti come questo di cui... ci ha raccontato Christian, l'intervento della scuola deve essere decisivo, non a volte anche autoritario, perché incominciamo a sfiorare non quel bullismo di cui è una goliardia spinta, ma è quasi un reato. Sì. Insomma, e di fronte a questo, io mi sono trovato in questa situazione, in caso di una ragazza, ho immediatamente innanzitutto avvisato i servizi. Per quanto riguarda i ragazzi che hanno commesso l'atto, insomma, diciamo così, avvisati i servizi, chiamate le famiglie di questi ragazzi, e insieme si è iniziato un processo di rieducazione, di considerazione, di riflessione con i ragazzi, ma comunque è seguito l'intervento disciplinare. Cosa gli avete fatto? Pesante, forte. Cosa vuol dire pesante, forte? La pesante, sospensione? Forte significa anche l'allontanamento dall'istituto, non dalle lezioni, dalla classe. Dall'istituto. Sono diversi, i provvedimenti sono diversi. Sì, capiamo, preside. Allora, a Christian possiamo dire, Alberto, che tu... sei a disposizione, come dei genitori sempre in difficoltà, a cui rispondi. Sia stato in realtà già molto competente, forse il passaggio in più è proprio darsi adesso l'occasione di parlare in modo più tranquillo di quello che è successo attraverso il pretesto di una storia, e se vuole gli comunque daremo indicazioni di libri, ecco, che possono servire. Per contattare servire. Alberto Pellai, essere benessere @radio24.it, ci regala sicuramente delle indicazioni di benessere. Andiamo a Modena, ci aspetta Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Stefano, la sento lontana. Sento meglio così? Sì, sì, adesso sì. Buongiorno. Ecco. Abbiamo buongiorno, un minuto allora e mezzo. Sì. Ho fatto per molti anni l'educatore, soprattutto nella scuola dell'infanzia. Abbiamo fatto un progetto col Comune di Modena per 3 anni su prevenzione bullismo, eccetera, con ragazzi più grandi. Sì. La mia esperienza è che non è un problema, come tutti i problemi educativi, che si può risolvere con una scorciatoia, sì, per esempio le telecamere, eccetera. Il processo educativo è un processo lungo, lento, difficile, è la cosa più importante che c'è nella vita di una persona. Sì. Quindi scorciatoie non esistono. Anche perché appunto non è controllando come Grande Fratello qualsiasi momento che si può pensare di avere veramente il polso della situazione educativa o della crescita di un ragazzo. Per quanto riguarda il bullismo, posso dire dalla mia esperienza che comincia nella prima infanzia, l'educazione alla cooperazione, al rispetto dell'individuo e al vivere insieme in una comunità. Quando questi aspetti sono deficitari o nella scuola o peggio ancora nella famiglia, questo ecco che abbiamo i problemi di bullismo. Grazie. Molto spesso alle spalle c'è questo. Grazie, Stefano, lei ha molta ragione. Direi proprio per concludere la trasmissione di oggi, l'ultimo messaggio che ci è arrivato è di Miriam. Io, e non solo, ho avuto seri problemi per almeno 3 anni. Lo dissi alla mia prof, ma non prese provvedimenti. Lo dissi a mia madre, la quale mi disse di essere superiore. Sono stati per me gli anni più difficili al liceo. Miriam, le siamo vicini grazie di questa chiusura che ci fa pensare che siamo una comunità educante e il bullismo viene vinto non dalle videocamere forse, ma da adulti che sanno costruire insieme una società migliore. E un altro spunto di riflessione su cui poi torneremo a parlare ci arriva da un altro messaggio. In apertura già una mamma ci chiedeva come capire se mio figlio si sta trasformando in bullo, e un altro messaggio: ma il continuo timore che il bambino subisca anziché il bambino aggredisca non è in qualche modo una spinta al bullismo? Meglio colpire che subire? Allora noi ci salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Salutiamo il nostro preside Domenico Altamura, salutiamo voi che siete stati grazie con noi, scriveteci, appuntamento a sabato prossimo. Buona giornata da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.